Ora vorremmo presentarvi un brano del nostro primo LP, pezzo che si chiama Metamorfosi ed è tutto vostro. Thank you. Yeah. Grazie a tutti. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie ancora. Addio.